l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro viaggio settimanale per raccontarvi altri punti di vista sull'Europa, un programma in collaborazione con Euronet, euronet.eu, il portale di questo network di radio europee che cercano appunto di trasferire, respirare quella che è un po' la cultura europea, così sfiorando, toccando l'attualità. Ci potete seguire anche via Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, le nostre pagine che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, oppure i vostri sms al 349-238-6666. Questa settimana non possiamo non partire da Londra. This was Tottenham High Road late last night. At one end, officers in riot gear. At the other, the young men they're trying to police. This was the main shopping street, the commercial heart of the community. Gli incidenti londinesi hanno calamitato quella che è stata un po' l'attualità della settimana, ma non solo Londra, le periferie di tutta Europa in questi mesi sono stati al centro. È successo in Francia, è successo a Parigi, è successo in Spagna. Quello che è semplice vandalismo, quella che è indignazione, quella che è protesta, un forte mix, comunque una ventata strana, una ventata che fa paura, una ventata che pone questioni, che pone domande, che pone riflessioni. Anche noi oggi vogliamo dedicare parte della nostra puntata a tutto questo e quindi andiamo direttamente a Londra, non tanto per raccontarvi la cronaca che è stata ben seguita anche da Radio 24 giorno per giorno, ma per capire quello che è un po' il polso della strada, del territorio in queste ore. E per farlo abbiamo invitato un amico dell'Altra Europa, lui è Federico Gatti, un giornalista italiano, vive a Londra e lavora per il Bureau Investigative Journalism. Ciao Federico, buon sabato. Buongiorno Federico e ciao a tutti gli ascoltatori. Ti abbiamo conosciuto anche il tuo modo di fare giornalismo col Bureau, che è una sorta di giornalismo un po' meno ufficiale, ma dove seguite con le vostre inchieste quello che spesso non viene raccontato, quindi mi piaceva avere il tuo punto di vista, perché sicuramente anche tu in questi giorni sei stato in strada. Sì, sono stato in strada per lavoro, per documentare questo fenomeno e anch'io rientro nel vasto gruppo dell'opinione pubblica inglese che è ancora un po' sotto shock, perché mi potevo aspettare questo tipo di fenomeno in tanti altri posti, ma non a Londra. Nel senso, un fenomeno inatteso? Sì, perché è un fenomeno che dà ragione a coloro i quali l'anno scorso dissero, e mi riferisco in particolar modo a Cameron, il multiculturalismo ha fallito. Io non me l'aspettavo, ma devo dargli ragione. Mm-hmm. E tu vivi anche in quei quartieri, hai avuto paura? Allora, io per fortuna sono riuscito a scindere la parte razionale da giornalista, anzi la parte razionale e cosciente, la parte incosciente del giornalista che doveva documentare. La mia parte giornalistica non aveva paura, ma se fossi stato un semplice spettatore c'era da essere chiusi in casa e abbastanza impauriti, sì. Anche perché io vivo proprio a due passi da Hackney, una delle zone calde. Mm-hmm. Ecco, in queste zone calde le hai frequentate, hai parlato con alcuni dei ragazzi che hanno animato queste giornate di violenza? Sì, certo, mi è capitato di parlare con uno di loro proprio durante i primi giorni degli scontri e lui mi diceva no, assolutamente non c'è nessuna simbolo, non c'è niente di politico, niente di sociale. Certo è che io non ho soldi, Londra è costosa, per divertirsi bisogna avere soldi, io ho delle pulsioni da liberare e se non ho abbastanza soldi per potermi permettere il divertimento, allora c'è qualcos'altro, quindi la violenza è gratis e questo è stato. Mm-hmm. Che insomma è preoccupante, no? Anche come lettura. Poi andremo a capire anche, tenteremo di capire anche le radici di questa cultura, dove insomma per un iPod si è pronti a tutto, no? Adesso la sto forse sintetizzando, la sto anche banalizzando, però questa è una delle tante letture che sono arrivate a noi. E poi c'è tutta un'opinione pubblica, ecco, l'altra Londra, cosa ha capito di tutto ciò, come ha reagito e come sta vivendo in queste ore? C'è una calma ritrovata, come sembra leggendo i giornali, o è una calma che sta nascondendo altro? Assolutamente. Allora, l'opinione pubblica qua è ancora sotto shock. Le acque si sono calmate, ma io penso che sia un fiume carsico che si è, diciamo, è sommerso, ma riapparirà tra poco. O tra molto, prima o poi riapparirà, e questo è l'unico punto sul quale sembrano tutti essere certi. La comunità adesso è divisa in due grossi gruppi: coloro i quali vorrebbero e desidererebbero veramente il pugno duro di Cameron, della polizia, della magistratura, e quelli che avrebbero qualche remora ad applicarla. Perché? Perché il pugno duro della legge riguardo a un ragazzino che ha rubato un iPod potrebbero essere 10 anni di carcere, e io ho qualche scrupolo a mettere in galera un 12enne che ha rubato un iPod o un paio di scarpe. Quindi su questo si sta discutendo in queste ore. Federico, c'è qualcosa che i giornali non hanno raccontato? Guarda, io ho seguito abbastanza bene la vicenda sui media inglesi, e penso che i media inglesi si siano comportati abbastanza bene, dando molto respiro a questa vicenda. Non ho seguito molto bene i media italiani, quindi non posso dare un giudizio su questo. Ok, grazie davvero Federico per averci fotografato quella che è la situazione ora, e ti lasciamo al tuo lavoro. Ciao e buona estate. Grazie mille, buona giornata a tutti. 349-238-6666 per i vostri sms, oppure facebook.com/l'altraeuropa, la nostra pagina in Facebook, per seguirci in diretta minuto per minuto. Torniamo a Londra, torniamo ancora per ragionare su quanto è successo, cercando di capire se tutta la colpa sta in questo vortice. Si parla di esclusione sociale, questo ciclo di povertà legato alla disoccupazione, alla scarsa educazione, alla mancanza di cultura. Questo è quello che è accaduto, quello che ha scatenato questa violenza, questa rabbia che è diventata violenza a Londra, ma cose simili sono state viste in Francia, la stessa Spagna, con gli indignati. A volte c'è stata qualche deriva dove la protesta è diventata appunto teppismo. Per avere un'altra fotografia, per avere un altro contributo, abbiamo invitato un docente di sociologia e criminologia, lavora e insegna alla Middlesex University di Londra, e diamole il benvenuto al professor Vincenzo Ruggero. Ciao Vincenzo, grazie per essere qua con buongiorno, noi. Buongiorno. Tu sei sociologo, tu insegni a Londra. Sì. A Londra facciamo dei corsi di sociologia della devianza e criminologia. Ecco, devianza e criminologia secondo te sono un punto di vista centrale per raccontare, per capire quello che è accaduto in questi giorni a Londra? Ma guardi, vorrei cominciare con una piccola nota, che Boris Johnson, il sindaco di Londra, l'altro giorno ha fatto una dichiarazione piuttosto offensiva. Ha detto: non voglio spiegazioni sociologiche di questi eventi. Quindi ha offeso praticamente un'intera comunità nazionale, inclusi gli studenti di sociologia. A quel punto non abbiamo fatto altro che, in quanto associazione britannica dei sociologi, scrivere una nota di protesta, anzi invitando sia Johnson che Cameron a seguire i nostri corsi di sociologia, a prendersi un bel diploma in sociologia, se non altro impareranno cosa vuol dire conflitto, cosa vuol dire solidarietà, cosa vuol dire azione collettiva e cosa vuol dire governare un paese e delle classi sociali. Ecco, ma questo perché? Perché comincerei immediatamente con questa nota. Negare che sia un fatto sociologico vuol dire un po' difendersi, vuol dire non ammettere. Allora, che spiegazione vuole? Psicopatologica? Non riesco a capire. O genetica? Non riesco a capire qual è il senso di quella dichiarazione del sindaco di Londra. Vincenzo, nel preparare l'intervista, tra le cose che ci hai detto, c'è una che mi ha praticamente incuriosito, che è questa. Tu tempo fa avevi proposto una ricerca proprio su questi fenomeni. si chiamava proprio così, The London Banlieue. Can it happen here? Può succedere qui? Era la nostra proposta, fatta a uno dei consigli che finanziano ricerca più grossi, che si chiama Economic and Social Research Council. Ebbene, non era interessata la cosa, perché era assolutamente impensabile che una cosa del genere succedesse. Invece, ecco, adesso faremo la proposta, una nuova proposta, dicendo la banlieue di Londra è successo anche qui. Ecco, vediamo se qualcuno ce la finanzia, cerchiamo di capire attraverso interviste, attraverso contatti con i protagonisti di questi eventi, quali sono i problemi. Questo perché avevi colto dei segnali simili a quello che era accaduto in Francia? Tutti i criteri erano lì, insomma, perché bisogna anche capirsi come è aumentata la distanza, come è stata polarizzata la ricchezza negli ultimi 10, 20, 30 anni. E forse bisognerà cominciare a dire qual è l'indice, appunto, di proporzione tra il salario più basso e quello più alto, che è eticamente accettabile. 10 volte di più, 20 volte di più, 100 volte di più, 2000 volte di più, questo è il discorso. C'è un limite oltre il quale la polarizzazione della ricchezza è disfunzionale, pericolosissima e ingiusta dal punto di vista etico. Questa è la questione che vorrei un po' porre. Ecco, Vincenzo, si parla di periferia, ma più che altro una periferia non tanto fisica, no? Quello che è successo all'Indo. Appunto. Hackney Centrale, signore Brixton, è a due fermate da Victoria Station. Insomma, siamo in centro. E poi una cosa vorrei anche sottolineare, ascoltando il giornalista che avete interpellato poc'anzi, io comincerei a dire: questi sono britannici, cominciamo da subito, togliamo qualsiasi equivoco, altro che multicultural, questi sono British, punto e basta. Poi ognuno avrà il proprio retroterra culturale, questi non hanno mai vista la Giamaica, capito? L'abbiamo vista noi la Giamaica da turisti, loro non ci sono mai stati, i nonni erano giamaicani, ma loro sono britannici, punto e basta. Altra cosa, sì, il multiculturalismo funziona perfettamente a livello di base, invece è quello che non vogliono accettare i politici, tant'è vero che sia le gang, quelle diciamo così illegali, ma sia i gruppi di amici normali si frequentano tranquillamente tra bianchi e neri, non c'è nessun problema. Gli amici di mia figlia sono uno portoghese, uno giamaicano, uno nigeriano, lei è mista perché la madre è di Saint Lucia e il padre è italiano e così via. Abbiamo tutto il mondo, quando si riuniscono gli amici di mia figlia abbiamo tutto il mondo riuniti intorno alla tavola. Ecco, è una pausa apparente questa calma che sembra ritornata a Londra? Basta il pugno duro adesso per risolvere la questione? Ovviamente no. Quale sarà lo scatto necessario, lo scatto culturale, e credo uno scatto che possa diventare qualcosa, un faro anche per altre situazioni simili che ci sono in tutta Europa? Ma guardi, vedrà che adesso ci saranno, secondo me, all'interno della stessa polizia, bisogna capire delle dinamiche, quali sono quelle più probabili. Cioè c'è una parte della polizia, soprattutto ai livelli più alti del management, diciamo, che sono persone estremamente preparate, con le quali si può lavorare tranquillamente, perché la polizia è un'istituzione troppo importante in una società democratica per lasciarla in mano a delle persone incompetenti. Ecco, quindi vedrà che ci sarà una inchiesta, ci sarà i poliziotti più appunto democratici, più aperti, diranno sì, bisogna cambiare il rapporto che abbiamo con la comunità, e nel frattempo continueranno però dei meccanismi strutturali, ovviamente, che si chiamano di razzismo strutturale, che continueranno così attraverso le politiche sociali del governo, attraverso le politiche economiche, eccetera. Le faccio un esempio, cioè la polizia può anche dire a un certo punto, come ha fatto diverse volte, ma scusate, ma perché dovremmo noi risolvere tutti i problemi sociali? I problemi sociali li create voi, i politici, attraverso le vostre scelte, perché noi non possiamo fare gli assistenti sociali, gli psicologi, eccetera, eccetera, mi spiego. Ecco, una delle cose più che lei diceva, se i giornali italiani hanno coperto bene queste notizie, una cosa che almeno non ho visto nei giornali italiani, una cosa importantissima, che è quello che si chiama EMA, cioè Education Maintenance Allowance. Tutto questo è una cosa affascinante da discutere. Questo era un piccolo provvedimento legislativo di qualche anno fa, che consentiva di dare dei soldi minimo, miserie, insomma 50 sterline a settimana, ad esempio, non ricordo bene la somma, a coloro che non erano riusciti a completare gli studi obbligatori. Quindi cosa succedeva? Quelli che erano espulsi dalle scuole per qualsiasi motivo, ecco, avevano questo allowance, così potevano, se non altro, iscriversi a corsi professionali, andare a un college locale, passare del tempo, fare un po' di formazione professionale, eccetera. Gli hanno tagliato questa cosa, è come togliere il latte ai bambini, come aveva fatto la Thatcher negli anni 80, come rubare le merendine ai bimbi. la stessa cosa. E la deriva più immediata diventa che per sentirsi inclusi in questa società bisogna avere l'iPod, perché è un po' cosa ci viene insegnato? Come diceva un filosofo ultimamente, quello, l'unica cosa che ci rimane da fare è lo shopping. Dice, bene, questa è una forma di shopping, scusate. Una, è obbligatorio avere determinate cose. Ci sono solo due valori, come diceva già Robert Merton negli Stati Uniti negli anni 50 e 60, ci sono il successo, lo status e il denaro. Allora c'è chi può raggiungere successo e denaro attraverso mezzi legittimi, e c'è invece chi viene considerato innovatore, innova e quindi li fa in maniera illegittima. Concentrarsi troppo però sull'esclusione secondo me può essere anche un errore, in quanto si cade nella solita giustificazione, diciamo così, abitudinaria di dire, beh, la criminalità è prodotta dalla povertà. Beh, insomma, uno che guarda l'Italia come guardo io direi che è il contrario. La criminalità in Italia è determinata dalla ricchezza, visto che abbiamo l'elite più criminale del mondo occidentale. Ok, grazie davvero a Vincenzo Ruggero, docente di sociologia e criminologia alla Middlesex University di Londra. Vincenzo era in vacanza, grazie per averci dedicato qualche minuto. Ciao e buon sabato. Tanti auguri, salve. Take me away. I wish that I could stay. Girl, I know I've got to go. E rimaniamo nelle strade di Londra per raccontarvi una storia che proprio da lì nasce. La storia di un musicista, la storia di un buskers, la storia di un buskers italiano che proprio a Londra ha trovato la sua fortuna. Ciao Luca, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno. Ciao. La tua storia è significativa, si parla tanto in questi giorni delle strade londinesi. Tu da lì sei arrivato e da lì sei partito? Sì, esatto. E da dove arrivi? Come sei arrivato? Come è nata questo tuo desiderio di fare il busker? Ma dunque, è stato un po' un insieme di casualità. Io mi trovavo a Londra 5 anni fa per seguire una ricerca linguistica per i miei studi. Stavo facendo scienze della comunicazione a Pisa, appunto. Sì. E così, girando per Londra, rimasi affascinato dal busking, quindi questo modo di fare musica per strada. E per gioco, ecco, voglio provare, è nato l'amore, diciamo, per questo modo di esibirsi. Mm-hmm. Ecco, ma è stato più l'amore per il busking o per Londra o per la città? Ma è stato sicuramente un insieme. Cioè, Londra, specialmente per un ragazzo che viene dalla provincia di Pisa, è il paese dei balocchi, specialmente per un musicista. E di verità, ecco, questa cosa mi ha sempre un po' affascinato, cioè di suonare un po' al di fuori dalle linee, quindi senza un palco, senza un format. Mi ricordo, ecco, da ragazzino quando mi divertivo a suonare nelle spiaggiate, sì, che tutti ben conosciamo, quindi questi luoghi dove c'è solamente chi canta, la musica e chi ascolta, non ci sono, ecco, palchi, format, nessuno che dice chi sei, cosa fai, ma è pura musica. Ok, quindi nessun filtro. No. Europost-it. London, ITA. Volete fare un viaggio a Londra? Vi interessa andarci per imparare l'inglese? Oppure volete trasferirvi in questa capitale europea? C'è un sito molto utile che fornisce tante informazioni per viaggiare, trovare alberghi e ostelli, oppure un alloggio, conoscere le zone della città, ottenere assistenza sanitaria, ma anche per vedere quali eventi ospita e cosa fare la sera. Tutto in italiano per gli utenti italiani. Andate su londonita.com. Nobody said it was easy. Boy, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. And no one ever said you would be this hard. Take me back to the start. A Ancora l'altra Europa, e ancora con Luca che fa il busker a Londra. www.lucamusic.co.uk è il sito di Luca, lo abbiamo già pubblicato anche nelle nostre pagine in Facebook, insieme alla sua pagina in Facebook, se volete conoscerlo e se volete scoprirlo. Lo stiamo richiamando perché è caduta la linea. Comunque da 6 anni fa il busker, si è avvicinato a Londra per studio, poi ha capito che la sua chitarra là poteva essergli molto utile e lì è rimasto e lì continua a vivere di musica. Adesso capiremo il come, capiremo anche com'è la vita delle buskers a Londra. Ecco che l'abbiamo recuperato. Londra, Luca, ci sei? Sì, eccoti qua. E no, raccontaci un po' com'è la vita da busker, nel senso la tua quotidianità. Ma dunque, ora diciamo, la vita il busker vero e proprio, una cosa che appartiene forse a 4-5 anni fa, adesso è più rimasta una passione, una cosa che faccio molto ogni tanto. Però ecco, è stata un'esperienza molto interessante, specialmente ecco, da italiano, è stata una grande sorpresa per me vestire questo nuovo modo di esprimere la musica. Ecco, scusa Luca, e tu che insomma hai respirato la strada, l'hai vissuta, l'hai conosciuta, ti aspettavi le cose che sono accadute in questi giorni a Londra? Cioè, avevi percepito, avevi il sentore che qualcosa stava bollendo sotto? Ma penso che sia stata un po' una sorpresa per tutti. Cioè, penso che ci sia molta confusione ancora. Cioè, Londra, io la conosco per città appunto multiculturale, dove ognuno rispetta gli altri a prescindere da dove vengono, cosa credono e cosa fanno. Sicuramente appunto, come sentivo gli altri che hanno parlato prima di me, questo disagio ecco, nasce dagli inglesi, da quella parte di giovani inglesi che si trovano senza lavoro, un po' emarginati da questa società, e quindi hanno questa rabbia, certo, confinata per che non riescono chiaramente a trovare lavoro. Certo. E chiaramente non è una scusa, però è un disagio sociale che non possiamo sottovalutare. Certo. Quindi sicuramente sì, è stata una sorpresa, non mi sarei aspettato, anche perché io abito in centro, non frequento molto le zone Tottenham, comunque zone di periferia dove chiaramente abitano queste persone. Luca, invece, tornando a te, alla tua attività, adesso fai il musicista, suoni e canti, e tra le mille cose che fai leggevo anche di questa collaborazione con Eddie Jordan, il pilota di Formula 1? Sì, lui era l'ex proprietario del team Jordan, sì? Che è quello che ha dato la prima corsa a Schumacher, Senna e molti altri piloti famosi. Sì. E lui, ecco, oltre ad essere la Formula 1, ha una grande passione per la musica, nonché batterista. E proprio per caso mi vide suonare per strada e mi ha invitato all'inizio a suonare per i suoi party, fa molte feste di beneficenza, comunque party per la London VIP. Mm-hmm. E poi mi ha chiesto di far parte del suo gruppo, Eddie and the Robbers. Fantastico. Quindi dall'anno scorso diciamo ho iniziato a girare un po' il mondo, ecco, sono provato a passare dal Brasile, America, Bahrain, Australia. Ma suonate suonate nei circuiti? Ma dunque ci sono diverse occasioni, la maggior parte sono feste appunto di beneficenza che sono in concomitanza con il Gran Premio, si chiamano Grand Prix Bowl, che sono poi i Gran Galà. Molte altre sono all'interno sì del Gran Premio, come l'ultimo abbiamo suonato a Silverstone, dove c'è proprio un grande palco all'interno della pista, e subito dopo la corsa ecco, si aprono le porte per gli spettatori ad assistere allo show. Uh-huh. Hai altri concerti in programma? Sì, dunque andiamo a Rotterdam il 20 e il 21, c'è un festival appunto delle macchine da corsa. Okay. E abbiamo un palco lì domenica. Perfetto. lucamusic.co.uk, questo è il sito se volete conoscere e contattare Luca. Ciao Luca, grazie per averci raccontato la tua storia. Ciao, buon sabato. Ciao, ciao. Europost-it. Viaggiare in Europa senza stress. State partendo per andare in vacanza in un altro paese dell'Unione Europea? Tra le cose da non dimenticare prima della partenza, c'è la tessera gratuita europea di assicurazione malattia, che vi consente di accedere più agevolmente alle cure mediche durante i soggiorni all'estero. Contattate il vostro ente assicurativo per informarvi su come ottenerla. Se viaggiate con un animale al seguito, anche lui deve avere il passaporto per dimostrare che è stato vaccinato. Per finire, segnatevi il numero unico europeo per le emergenze. 112. Funziona in tutti i paesi dell'Unione Europea ed è attivo in diverse lingue a seconda del paese. Per saperne di più e per conoscere i vostri diritti in viaggio, c'è la pagina web della Commissione Europea dedicata ai viaggi: ec.europa.eu/your-europe/citizens/travel. Und wir werden niemanden bevormunden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft des Landes. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Un discorso che rimarrà negli archivi, nei libri di storia, il discorso di Helmut Kohl in occasione dell'abbattimento del muro nel 1989. In questa puntata, dove spesso abbiamo usato la parola inclusione ed esclusione, volevamo tornare a 50 anni fa, quando Berlino si è svegliata con questo muro che iniziava a crescere, a nascere, quindi una data più che simbolica, una data che ha cambiato la storia. Per fortuna oggi questo muro non c'è, anche se in occasione dell'anniversario tanti articoli sui quotidiani e sui settimanali tedeschi hanno parlato di questo muro che fisicamente è stato abbattuto, ma rimane all'interno dei ricordi, rimane in tante famiglie, rimane soprattutto nella memoria di questa Germania, di com'era e di com'è. Quindi, come ogni appuntamento, come ogni anniversario, tante riflessioni, tanti confronti, anche noi volevamo portare il nostro contributo e per farlo andiamo proprio a Berlino e ci andiamo insieme ad Ambros Weibel, giornalista del quotidiano. Ambros, qua mi devi aiutare come sempre a citare il tuo quotidiano. Salve, buongiorno. Ciao. Il giornale si chiama Taz, che è un'abbreviazione di Tageszeitung, che vuol dire in italiano il giornale. Ah sì, è vero, esatto, quindi è anche facile. Ciao Ambros, grazie intanto per essere qua con noi anche oggi. E ci piaceva avere una voce berlinese per capire questo muro oggi che cos'è, al di là di quello che è restato, no? Leggevo un articolo proprio questa mattina, forse sulla Stampa, con un'intervista, non ricordo a chi, c'è chi si lamenta perché comunque ne è rimasto poco, ma ne è rimasto poco proprio come memoria, no? Qualcuno ha detto, beh, forse potevamo abbatterne un po' di meno, perché ricordare quello che c'era fa sempre bene. Però questo muro è rimasto in tanti livelli della società berlinese, vero? Beh, diciamo, sono rimasti 200 metri, diciamo, come muro vero e proprio, che c'è Bernauer Straße, che è un centro di documentazione, che anche, diciamo, posso consigliare a tutti che vengono a Berlino a visitarlo, perché veramente, diciamo, qui si prende una impressione molto forte di quel che è stato il muro. Poi c'è una linea, diciamo, di lastra, no? Per tutta la città, dove si può seguire il muro. Voglio dire, la documentazione c'è. Poi Berlino oggi, diciamo, è una città nuova, no? Non è più quel Berlino di una volta. Il muro non ha più una grande importanza per i berlinesi, direi. Anzi, diciamo che forse è stato proprio lo slancio, no? L'abbattimento del muro, sì, per una città nuova, per una città che è diventata una delle locomotive d'Europa, ma non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista culturale, perché è comunque una città viva. Sì, Berlino è una città molto viva, diciamo, nel quartiere dove abito io. Ormai ci sono tantissimi giovani italiani, giovani spagnoli, giovani francesi che vengono qua perché è una città un po' gli artisti, della gente che vuole fare musica, e non so, per loro forse, diciamo, il muro non ha più quella importanza. Invece, ovviamente, per i berlinesi, che hanno vissuto la storia sulla loro pelle, no? Oggi è un giorno importante, perché non dobbiamo dimenticare che 140 persone sono morti su questo muro, cercando di scappare, cercando di aiutare la gente del Berlino dell'Est che voleva entrare nella libertà. E così mi sembra giusto che oggi si fa una grande commemorazione a Berlino, a questo centro documentazione della Bernaustrasse. Certo. Ambros, giusto farlo. Ambros, leggevo però che questo muro è rimasto un po' all'interno delle famiglie, nel senso che questo muro è una sorta di linea generazionale, no? Soprattutto tra genitori e figli, i genitori che ricordano quando c'era il muro, i figli invece che il muro non l'hanno mai vissuto. È un muro reale o è solo metaforico? Nel senso, è davvero una differenza generazionale che c'è all'interno delle famiglie di Berlino? Sì, ma direi questo forse vale per tutta la Germania, forse anche, diciamo, anche per gli italiani, diciamo, quelli che hanno vissuto l'esperienza della guerra fredda, no? Mm-hmm. Hanno un'altra esperienza dei giovani, diciamo, uno che viene a Berlino, sia da, che ne so, da Monaco di Baviera o da Roma, non può immaginarsi che si può dividere una città in due con un muro alto più di 2 metri. Sembra una idea folle, no? Certo. Ovviamente, diciamo, se io cerco a spiegarlo ai miei figli, che adesso facciamo un salto a destra, siamo in un altro paese, o saremmo stati in un altro paese, loro hanno difficoltà di capire. Certo. Ma è questo, diciamo, che dobbiamo cercare di dare ai nostri figli, no? Che una idea della storia come è stata. Certo. Ambros, sei in vacanza o stai lavorando? Io sono ancora in vacanza. Ok. L'ultima volta che ci siamo salutati eri appena stato in Sardegna per il lavoro, adesso quindi non hai qualche nuova inchiesta alla quale stai lavorando? Sei davvero in vacanza? Abbiamo pubblicato l'articolo su Sardegna, sul poligono Saggio di Quirra. Abbiamo avuto una presentazione qui in un caffè Berlino, dove c'è un tipo di ambasciata culturale della Sardegna, dove si incontra la comunità sarda a Berlino, che sì, sono tanti. E abbiamo fatto la presentazione dell'articolo, abbiamo discusso su Sardegna, sullo stato dell'inchiesta che sta facendo il procuratore Fiordalisi a Lanusei. E adesso ci sarà anche un film. C'è stata una equipe della TV. Il 19 agosto ci sarà un grande servizio del Radio Nazionale della Germania, proprio anche su Quirra. Quindi tanto, allora, sembra che diventa una storia interessante. Tanto interesse. Grazie davvero, Ambros. Ti aspettiamo anche qui in studio. Se vieni in Italia, faccelo sapere che ci piacerebbe averti nostro ospite. Buona vacanza. A voi, volentieri. Ciao. Buon sabato, grazie. Grazie. I don't need your sympathy. Připadáte si občas jako kráva? Cítíte se osamělá? Tlustá? Máte pocit, že jste neatraktivní? Zbytečná? Nic se vám nedaří? To proto, že ještě nemáte svého buzeranta. Quello che avete ascoltato è stato uno degli spot che sono stati messi in onda in queste settimane a Praga per promuovere il Gay Pride di Praga, appuntamento che si sta svolgendo dal 10 al 14 agosto, appuntamento importante soprattutto perché si è tenuto e si tiene in un contesto politico e difficile. Il presidente della Repubblica, Václav Klaus, l'ha condannata questa manifestazione, dichiarandosi contrario a questo tipo di ostentazione questione della sessualità, quindi insomma un contesto complicato, quello che doveva essere una pacifica manifestazione insomma invece ha rischiato di scatenare anche le frange più violente dei neonazisti in città. Situazione tesa, ma situazione anche di festa, come sono solitamente i Gay Pride. Per capire cosa sta accadendo abbiamo invitato una delle organizzatrici del Gay Pride di Praga. Diamo il benvenuto ad Adela Scalova. Ciao Adela. Ciao, buon sabato. Come sta andando intanto? Raccontaci. Allora, tutto sta a posto, vedo molti poliziotti che sono pronti perché si aspetta anche la marcia dei neonazisti, però speriamo che sarà più una festa che una dimostrazione. Perché è stata organizzata una marcia parallela di protesta, diciamo. Sì, diciamo due marce, una dei neonazisti e altra dei, diciamo, cattolici radicali che fanno la marcia per la famiglia, si chiama, per la famiglia tradizionale. Uh-huh. Allora, possono essere un po' violenti, per questo bisogna essere un po' attenti, però credo che tutto starà bene. Ecco, ma Adela, come mai che si è arrivati a queste tensioni, nel senso che se ne parla da mesi di questo Gay Pride, non c'è stato modo di instaurare un dialogo? Sì, però poi non sono così sicura che si può, diciamo, dibattere con i neonazisti. Credo anch'io. E poi, poi la politica credo che il Gay Pride è diventato più una questione politica che ideologica qui a Praga. Ecco, ma il presidente Klaus ha fatto marcia indietro o ha confermato le sue posizioni, le sue parole? Sì, ha detto che proprio che non appoggia questa festa, questa cosa, perché cioè non gli piace, è così, no? E poi ha detto che cioè non capisce perché cioè non ha detto che è contro gli omosessuali, però più o meno ha detto che l'omosessualità è una deviazione. Ok, quindi insomma ha peggiorato. Direi che... Sì. Adela, quindi una festa, questo è quello che volete fare? C'è la politica, ci sono i neonazisti, ci sono i cattolici radicali, insomma, con le loro marce, e invece i cittadini come stanno, come vi stanno accogliendo, come stanno partecipando a questa festa? Che tutto si possono vedere in tutta la Praga le bandiere gay, poi ci sarà un concerto, tutti i miei amici eterosessuali hanno detto che vengono, allora credo che la maggioria della gente l'ha accettato bene. Sì. Mm-hmm. E tutto ciò dove avviene? Nel cuore della città? Cosa? E dove avviene il tutto? Dov'è il centro della manifestazione? C'è si chiama Piazza della Repubblica al centro. Ah, proprio, okay. Sì. Proprio nel cuore. Tutto si svolge al centro di Praga. Perfetto. Sì. Grazie davvero Adela per averci raccontato quello che sta accadendo, speriamo insomma che sia una giornata di festa come abbiamo sottolineato più volte. Buon Gay Pride. Grazie, ciao. Ciao Adela, buon sabato. Europost-it. Per la nightlife e tutto il resto. Una guida online per conoscere i locali, gli eventi, le manifestazioni e le feste della comunità gay di tutta Europa è il sito nighttours.com, che offre informazioni sui locali, le discoteche e le serate gay friendly d'Europa e di tutto il mondo, ma anche informazioni sui principali eventi internazionali con un accuratissimo calendario. Siete curiosi di sapere in quale parte del mondo ci sarà la prossima parata del Gay Pride? Andate sul sito nighttours.com. E chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa raccontandovi di un festival dei più importanti che si tengono appunto nel nostro continente. Sto parlando del Festival di Edimburgo, festival di teatro che trasforma questa città in un grande, grandissimo palcoscenico con il festival ufficiale, poi anche il festival parallelo, il Fringe Festival. Un mese intero dove c'è la possibilità di mettersi in mostra, perché è anche una grande vetrina artistica. e siamo andati a scartabellare nel programma. Abbiamo trovato anche una realtà italiana che è lì al Fringe Festival in questi giorni a Edimburgo. Do il benvenuto a Paolo Faroni, che si trova al Fringe Festival con la sua compagnia, che è la Blues Clint, da Casale Monferrato ad Edimburgo. Ciao Paolo. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Allora Paolo, volevamo una voce che fosse lì sul territorio, intanto per farci assaporare che cos'è il Fringe Festival. Sì. Racconta la tua giornata, che credo sia già più che significativa, vero? Sì, esatto. Ma il Fringe Festival è un festival dove ci sono più di 2000 spettacoli che ogni giorno replicano, sparsi tra 258 e più spazi, che ogni ora, dalla mattina fino a sera, fanno spettacolo. Quindi con questi ritmi ogni giorno ci sono appunto questa mole di spettacoli. Vista la mole degli spettacoli, ovviamente per potersi pubblicizzare bisogna andare in giro per la città a volantinare, parlando del proprio spettacolo, nella speranza che qualcuno venga, perché sono talmente tanti che chiaramente il mercato è decisamente saturo in questo mese. Certo, rispetto... certo. Quindi tu sei dal 5-29 agosto, queste sono le... Il 29 agosto io sono in scena in una delle venue, per fortuna, più, diciamo, in vista, perché è molto in centro. Uh-huh. E quindi la posizione è buona, anche se questo non vuol dire sempre pubblico elevato. Certo. Perché comunque a sua volta in centro ci sono anche altre realtà. Quindi tu sei in scena tutte le sere? Scusa? Tu sei in scena tutte le sere? Sì, sono in scena tutte le sere alle 7. Okay. Ho dei tempi molto stretti per prepararmi, perché praticamente abbiamo solo un quarto d'ora, anche di meno, da uno spettacolo all'altro. Però per fortuna ho una scenografia molto, come dire, facilmente mettibile e toglibile, quindi non ho particolari problemi nel prepararmi, e meno ancora ovviamente nell'andarmene, perché una volta che ho finito, poi nel campo a parte mi vesto mentre di là montano per il prossimo spettacolo. È molto turbinosa la cosa. e questo. Quindi, appunto, è moltiplicato per le centinaia di realtà che ci sono e che sono all'interno della città. E poi di giorno ti fai volantinaggio. Tu sei lì con un monologo. Sì, io sono con un monologo che ho tradotto in inglese. Ho fatto tradurre in inglese, non l'ho tradotto io perché il mio inglese è pessimo. Siete una compagnia giovanissima, però insomma credo sia una bella soddisfazione essere lì. E in scena fai il punk, questo vuol dire che anche nella tua attività di volantinaggio ti presenti come punk? Ma in realtà sì, ma se volantino da punk non... magari mi perdo una fetta di pubblico, mi sono accorto, perché, come dire, ci sono ancora delle signore e dei signori, diciamo, vittoriani qui, anche diciamo in Scozia, e quindi perciò magari vado tranquillo e poi uno al limite se lo scopre, ecco a cosa è venuto incontro. Certo, è arrivato al teatro. E bluesclint.com è il sito ufficiale per conoscervi meglio, dove c'è anche la... accidenti, abbiamo Paolo, dobbiamo salutare comunque. Bluesclint.com è il sito per conoscere la produzione, per conoscere questo spettacolo. Era una voce dal Festival di Edimburgo, e con questa voce chiudiamo anche questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a Margherita Aine e Alessandro Balia, che con me lo hanno scritto. Peter Bescapè alla parte tecnica. Ci trovate su Facebook, ci trovate sul nostro sito radio24.it. Io sarò in onda anche domani, domenica alle 17, con Mine Vagan. Ancora ciao da Federico Taddia.